Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Siete una coppia di innamorati? Per un San Valentino equo e solidale, adottate uno svantaggiato sentimentale. Invitatelo a cena con voi e riscaldatelo con il vostro amore. Voi che state preparandovi a trascorrere un San Valentino di fuoco assieme al vostro amore per sempre, ricordatevi che non per tutti oggi è una giornata di felicità. Per chi vive conflitti, amori disperati o passioni putrefatte, San Valentino è sicuramente il giorno peggiore dell'anno. Mi meraviglio che in un momento in cui il politicamente corretto trionfa, in cui almeno nell'apparenza tutti sembriamo interessati, presi nel nostro intimo per i problemi delle minoranze, degli svantaggiati, delle persone che sono infelici, magari non nella realtà, ma perlomeno ci piace tutti dare l'idea di essere altruisti, nessuno pensa che in una giornata come oggi c'è chi soffre. Chi è che soffre oggi? Oggi soffre chi vede rimbalzare quei cuoricini carezzevoli che sono ovunque, che ci arrivano ogni 30 secondi nei nostri social network, che rimbalzano su Facebook, che oggi riempiono le pagine dei giornali, sono altro che sale gettato sulle ferite amorose. Quanti svantaggiati sentimentali oggi stanno soli, derelitti, nell'ombra e soffrono vedendo l'allegria, l'ilarità, la lussura che serpeggia nelle coppie felici? Beh, quante coppie felici oggi potrebbero spartire la loro felicità con questi infelici? Questa è la proposta che lancio in questa trasmissione, prendendo offerte da parte di coppie felici e miserevoli richieste di attenzione da parte di disagiati sentimentali. Forse, ma dico soltanto forse, se non sortirà un effetto desiderato questa mia richiesta, avrò un incentivo al quale non saprete dire di no. Oggi cosa vi chiedo? Che da tutti quelli che si stanno preparando per festeggiare il San Valentino, come lo festeggerete? Questa sera avete già prenotato il ristorantino? Già avete prenotato il menù? Già avete prenotato il dopo ristorante? La stanzettina con l'idromassaggio? Con il mazzo di fiori? Con la musica adatta? Già avete comperato, se siete donne, le biancherie adatta? Se siete uomini già vi siete fatti la cura necessaria? Siete passati in farmacia? Insomma, vi preparate per festeggiare il San Valentino? Pensate quanta gente abbandonata, sola, derelitta, senza nessuno che li ami, stanno in un angolo e in fondo si sentono come delle piccole fiammiferaie la notte di Natale, che hanno soltanto il tepore del fiammifero, in cui vedono le loro allucinazioni dei Natali felici, e il loro destino sarà quello soltanto di morire congelati insieme ai loro sogni. Beh, oggi fate un gesto di altruismo, invitate uno sfigato sentimentale nella vostra festa di San Valentino. 800 24 00 24, iniziano da ora le richieste e le offerte. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Tu sei fortunato, ma sappi che esistono anche gli amorosamente svantaggiati, che a San Valentino si sentono come piccole fiammiferaie la notte di Natale, destinati al congelamento e alle visioni pre-morte. Sarebbe bello che oggi ogni coppia di innamorati felici inviti a passare con loro la notte di San Valentino un povero sfigato solitario, una romantica seduta e abbandonata, un qualsiasi reietto per cui non sia possibile condividere il sogno glitterato dei cuoricini palpitanti di passione, dei teneri micini che si fanno le fusa, dei tramonti luccicosi, delle candele profumate. Lo svantaggiato sentimentale ve ne sarà grato e la vostra storia d'amore ne sarà arricchita. State già rispondendo male rispetto alla mia offerta di altruismo. Naturalmente c'è chi dice: sappia che ci sono migliaia di single felicissimi di esserlo, che non si sentono i poveri sfigati, anzi, perché non parliamo anche di quelle coppie stantie che fanno finta di essere felici? Sì, ma un po' di leggerezza, tranquillo, certo, ci sono persone realizzate che stanno bene da soli, che stanno bene con il loro cane, con il loro gatto, che stanno bene con la loro solitudine, con il loro egoismo, con la loro rabbia, benissimo, anche persone realizzate, filosofi che stanno in cima alla colonna, felici di aver realizzato l'assoluto. Ma scherziamo un po' sul fatto che oggi tutto il mondo sia concentrato, al di là dei suoi problemi, su come realizzare questa sorta di sogno posticcio della sera di San Valentino. Ho delle amiche fidate che questa sera gireranno per ristoranti, mimetizzate, astute come faine e cangianti come lonze, e andranno a disturbare le coppie felici. Andranno lì, ci saranno delle erinni scatenate che andranno in giro per ristoranti, si siederanno, faranno finta di nulla e poi cominceranno a rompere le scatole alle coppiette felici che stanno lì con il menù degli innamorati, con la cioccolatina attizzante, con il peperoncino corroborante, con tutto quello che serve nella notte San Valentino. Facciamo una volta la parte di quelli che avrebbero desiderio di dividere la felicità altrui. Ma perché, scusate, è normale e lecito dire a Natale sentiamoci buoni, invitiamo un barbone a casa, laviamo i panni, laviamo i piedi a un povero mendicante, prendiamo un viandante? Perché per San Valentino dobbiamo prendere una persona che sta sola? Perché non aiutare come avreste diviso il cappone di Natale, avreste diviso il panettone con un povero? Perché non potete dividere la vostra felicità, l'anellino, lo spumantino, il dolcettino, assieme a una persona che sta sola? Giorgio, buongiorno. Giorgio, ecco, è talmente solo, è talmente derelitto, vediamo se riusciamo a richiamarlo. Nemmeno ha avuto la forza di tenere in mano la cornetta del telefono. Poi mi scrivono, dice: Nicoletti, è come le terrazze, che poi a cena gli sfigati saranno tre e la tristezza dominerà. Ma no, non è vero, Maila, non ci sarà tristezza. I due fidanzati faranno esibizione della loro felicità davanti a questo signore, che si, o signora naturalmente, che si sentirà corroborato da quella gioia. Giorgio, avete ripreso? No, adesso quando riprendiamo, Giorgio, tranquilli, posso andare avanti anche fino a domani a parlare, a raccontare, non è che mi pongo problemi. Ho sempre l'arma segreta in mano, perché se qualcuno volesse un incentivo a essere generoso, a invitare il derelitto, qualcuno avesse bisogno di superare quel minimo di incertezza, di titubanza, di pudicizia per raccontare la propria situazione di isolamento, di piccola fiammiferaia abbandonata, che ha un senso di vuoto rispetto alla felicità altrui, ho in mano La musica fa crescere i pomodori di Beppe Vessicchio, un libro che più attuale non c'è. Potrei regalarlo a chi fa il gesto generoso, potrei, se ne avessi bisogno. Ho anche una riserva non indifferente, libro infame, è come usare un correttivo, è come drogarsi, è come usare una pillola rinvigorente per dare senso a San Valentino. Non vorrei arrivare a questo, non vorrei che qualcuno mi chiamasse per avere il Vessicchio fresco di stampa, è bellissimo con la sua copertina verde. Il libro di cui ha parlato tutto il Festival di Sanremo, è stata l'unica nota culturale, l'unico elemento letterario, l'unica deriva poetica di tutto il Festival di Sanremo, il libro di Beppe Vessicchio. Prima assente, poi presente, poi baluginato, poi apparso. Perché non ci sarà? Perché? Perché la musica fa crescere i pomodori, il libro che ho in mano. Lo avrete. Leggo qualche altro messaggio. Dice un altro ascoltatore che mi manda una poesia, gocce di luna, vorrei perdermi nei tuoi pensieri giocando sulle note del tuo cuore, dolce nuove come l'alba della vita, Daniele Tentori. E vabbè, ha scritto la poesia per il suo amore. Allora, ripeto, vi faccio ancora una volta riflettere su questo. Esiste ogni momento di pubblica e celebrata felicità in cui qualcuno vi ricorda le persone infelici. State per sedervi aggredendo una bistecca succulenta con coltello e forchette, ma al povero animaletto che ha sofferto tanto. Subito viene voglia di dimenticare quel momento, di invitare tutta una serie di cucciolotti abbandonati e dare a loro dei croccantini vegetariani per farli star bene. Vi trovate in un momento in cui felici state per partire per la vacanza, pensa ai poveretti rimarranno in città. Subito vi verrebbe voglia di regalare il vostro biglietto acquistato a prezzo di faticosissimi sforzi a una povera famigliola che in realtà deve rimanere in città. Qualsiasi festa comandata, Pasqua, state per aprire l'uovo di Pasqua, che bella sorpresa, pensa chi non ha nemmeno questo, dei poveri bambini si devono accontentare dell'ovetto di cartone stagnola, come faranno questi bambini? Beh, allora subito prendete l'uovo di cioccolata, andate per strada, lo rompete, lo fate in mille pezzi, lo distribuite a tutti i passanti. Perché il giorno di San Valentino, che è un giorno assolutamente zuccheroso, di felicità conclamata, senza nessuna piega, non potete dividere la vostra felicità con qualcun altro. Igor, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, finalmente, Nicoletti. Qualcuno che mi darà una mano. Lei da che parte sta? Di un disagiato sentimentale o una coppia felice? Ma una coppia felice con bambini e che mai ha festeggiato San Valentino, per scelta, così, non lo so, in realtà non era una cosa che ci attirava più di tanto. Ma questa è la volta buona, potreste festeggiare finalmente la festa del vostro amore e invitare un disgraziato alla vostra, al vostro desco, no? Potrebbe essere un'idea, diciamo che... forse, cioè, appunto, rispetto, le avevo scritto un messaggio in cui suggerivo che magari avrebbe potuto favorire qualche incontro sentimentale a tre, diciamo. Lei vuol fare, scusi, lei vuol ridare colore al suo spento rapporto festeggiando il San Valentino portandosi un torello in famiglia, ma non è così che funziona, guardi. Personalmente no, visto che non festeggio San Valentino, anche queste cose forse vabbè, no, era stato un suggerimento per qualcun altro, diciamo. A lei aveva messo una nota maliziosa, dice questo, ma io non davo questa accezione di sparigliamento della coppia, assolutamente. Io immaginavo qualcosa, lei non ha mai fatto una cenetta romantica con sua moglie? Sì, cenetta romantica assolutamente. Non cioè so prima di fare, quanti figli ha? Due. Beh, almeno due cenette romantiche l'avrà fatte, penso. Sì, probabilmente sì. Almeno due. Ecco. Certo. Diamoci un margine. Ecco, certo. Lei immagina la cenetta romantica. Quando uno tocca il cielo con un dito, è convinto di avere la più grande fortuna del mondo, tutti gli dèi sono dalla tua parte, sente i violini, sente il profumo di rose e via dicendo. Pensi che bello dividere con qualcuno quella felicità. Pensi certo. Una povera ragazza appena abbandonata e sedotta da un malfattore sentimentale. Pensi un povero sfigato con gli occhiali spessi come i miei, che mai ha lambito il succo e il miele dell'amore. Lo invitate a cena, ma mica dovete farci niente, mica dovete metterlo lì no. A giro. Di... No, ma gli date da mangiare una fettina di dolce, gli date un bacio certo. Perugina, gli fate aprire la scatola con i cioccolatini e lo fate felice, no? Non so se il disagio sarà più il nostro o il suo, sinceramente, immaginandomi tutta la scena che mi ha detto. Non lo so, non la vedo come una cosa rincuorante, no? Perché lei ormai è in una fase, diciamo, di tramonto dell'idillio, perché giustamente ha preso una piega di rapporto di stima, di allevamento dei figli. Certo. Queste sono le cazzate che si fanno quando uno è agli inizi del rapporto. Penso, non lo so, immagino, se non sbaglio. Comunque, grazie Igor, lei ha rotto il ghiaccio. Giorgio. Sì, pronto. Lei cosa spera? Dunque, io spero che mia figlia possa essere invitata da una coppia di felici innamorati. Di felici innamorati, no? Oh, questo è un bel pensiero. Perché sua figlia, poverina, cosa c'ha che non va? Poverina, che figlia è favolosa. È un single, impenitentemente single, e gli fa piacere essere single, no? La cosa per cui per andare ad essere invitati da una coppia di amanti è fare quattro chiacchiere e tre risate tutti insieme. Anche perché, voglio dire, questa festa non è eccessivamente drammatizzata, perché se uno rimane solo ha sempre, immagini un po', quale possibilità e quali scelte, tutte le scelte da fare. Sì, però Giorgio, facciamoci capire, è chiaro che chi sta solo può essere strafelice, sua figlia sarà... Io alludo alle persone che soffrono il giorno di San Valentino, quelle che a vedere i cuoricini pensano al loro piccolo cuore infranto. Allora, sua figlia è una single felice, quindi lei manderebbe per cosa? Però sarebbe un elemento di distruzione, magari fa venire delle tentazioni di lasciarsi ai poveri fidanzati che festeggiano. E quindi una rovina famiglia manderebbe. Perché? No, chiedo, non lo so. No, chiedo a lei perché le è venuto questo pensiero. È perché, scusi, se la donna vede sua figlia così realizzata, così felice, così contenta, dice ragazzo... Vado a quel paese nuovo. Se l'uomo vede sua figlia così tentatrice, manda a quel paese la scucchiona che si è tenuta vicino per tutti quegli anni, dice guarda, cara, da oggi si cambia minestra, è rischioso. Voglia da 30, 40 anni, 50, nemmeno mi ricordo. Da 40, no? Quindi figuriamoci. Ecco, ma è roba per gli altri, non è roba per... Stamattina c'è stato un signore, no? Che mi diceva, oggi è San Valentino, per bacco, stasera vado a trovare una bella fidanzata, solitaria, che sarà da qualche parte. Sì, ma la deve pagare, scusi, nelle sue condizioni, sennò è difficile. No, perché deve pagare? Allora vede che lei ha bisogno, anche lei esattamente... Lui, non io. Questo signore ha bisogno esattamente di quello che chiediamo noi. Avrebbe bisogno di una coppia che lo adotta e per una sera dà l'illusione anche lui di essere nel roseo mondo di San Valentino. Come, scusi, quando noi invitiamo, come l'iconografia più classica e più orrenda, il povero nel cenone di Natale, Questo povero si illude, perché per una sera lui vede argenterie, tacchini che gli escono fuori le mele dal sedere, luci, regali, ma poi il giorno dopo torna a dormire sotto il ponte, quindi è crudele. La stessa crudeltà vorrei applicarla alla festa di San Valentino. Andiamo tra poco, 800 24 00 24, vi state scaldando, forse posso risparmiare il vessicchio, ma se ci sarà bisogno me lo giocherò come il mio jolly. A tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento Melog, cronache meridiane. Siete una coppia di innamorati? Per un San Valentino equo e solidale, adottate uno svantaggiato sentimentale. Invitatelo a cena con voi e riscaldatelo con il vostro amore. Voi che state preparandovi a trascorrere un San Valentino di fuoco assieme al vostro amore per sempre, ricordatevi che non per tutti oggi è una giornata di felicità. Per chi vive conflitti, amori disperati o passioni putrefatte, San Valentino è sicuramente il giorno peggiore dell'anno. Ciro, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, da io che parte sta? Dire, sì, da Milano. No, ma è uno svantaggiato sentimentale o una coppia felice? Coppia felice, ma io le volevo segnalare che da più di 10 anni io e mia moglie adottiamo un single. Ma non da soli, non solo io e mia moglie, ma condividiamo questo gesto con altre coppie di amici. Siamo una compagnia di 4-5 coppie e tutti gli anni, ormai da più di 10 anni, ci ritroviamo al ristorante. Con una poveretta, la nostra amica. Ma sempre la stessa, tutti gli anni? Sempre la stessa, sì, perché della compagnia è l'unica che purtroppo non ancora... Ma secondo me questa finge, avrà 70 amanti, è invitata ogni anno, non rinuncia a questo privilegio. No, lei è rimasta legata a un vecchio amore non corrisposto più di 20 anni fa e da allora non ha più voluto. E come la tenete su? Raccontate, perché date delle istruzioni utili a quelli che oggi vorrebbero fare il bel gesto. Come la fate sentire parte del vostro amore? Allora, non puntiamo sul rapporto dell'amicizia più, perché certo. L'amicizia è comunque un'espressione di amore anche quella. Ma portarvi anche un amico magari solitario che... Vedete, tante le volte da cosa nasce cosa? No, non ci avete mai pensato. No, questo l'abbiamo fatto già in tempi remoti, ma in altre occasioni, non a San Valentino. È proprio refrattare, ecco. Sì. Però noi condividiamo questo gesto di amore, perché poi tra l'altro ho sentito che in America festeggiano San Valentino, ma non come solo il rapporto di amore tra una coppia o marito e moglie, ma anche... L'amore è in senso lato, in senso generale. No, pensi, perché la gente si può anche amare senza essere marito e moglie. Sì, infatti mi ha colpito questa cosa che loro lo festeggiano in così un gran popolo, così allargata. Sì. Voi vi vedete una decina di coppie di coniugi, e fate una bella tavolata tipo matrimonio, esatto. E lei col tavolino sola in mezzo e voi tutti la guardate e mangiate. Così funziona. Sì, mangiamo, beviamo, ci divertiamo, ci raccontiamo. Alla fine voi andate a casa e lei che fa? Torna a casa sola? E lei sta a casa sola, ma lei vive da sola ormai da anni, quindi è abituata a tutto questo. Però secondo me lasciarla a casa da sola, no. San Valentino è ancora più triste. No, sta lì col suo gattino, poveraccio, meglio sta con me. Quindi per me le fa più bene venire con noi. Ma vedete spuntare qualche lacrima nei suoi occhioni tristi mentre voi state lì? No, lei è un tipo solare, ride, scherza con noi. Pensate un po' se non era solare, poverina, certo. È chiaro. Va bene, grazie Ciro. Maurizio. Sì, buongiorno. Senta, io l'ho anticipata, coppia felice, e io e mia moglie, ma già qualche anno fa, abbiamo invitato io un mio amico infelice, lei una sua amica infelice. Abbiamo detto, bel gesto Valentino, c'è più malinconia, sono sposate felicemente. Cioè due l'avete invitate, speravate si mettessero insieme? Ma sì, non subito, però al primo tentativo. E adesso ogni anno ci troviamo con questa coppia e loro... hanno fatto la stessa cosa, non è andata in porta, ma ci riprovano con un'altra coppia, un amico suo e un'amica di lei. È come il gioco della scopa sparpagliato, esatto. Durante l'anno, il ballo della esatto. Scopa. Voi passate la scopa uno, se va bene, bene. Però è stata una bella cosa, sarà proprio che quel giorno c'è più atmosfera, chi lo sa, non lo so. Però è stata una cosa che ci ringraziano sempre da allora. Però non si sono messi insieme? No, quelli che abbiamo combinato noi, io, mio amico e mia moglie, una sua amica... San Simedagno, ogni anno ci ringraziano. Ci vediamo a San Valentino tutte le sere. Io non ero così lungimirante di addirittura creare nuove occasioni, però è un'alternativa giusta. Se due coppie felici decidono di andare insieme a un ristorante, ognuno porta un single di genere differente, omogeneo, uguale, non cambia, e questi single magari vedendo il buon esempio potrebbero innamorarsi. Mi sembra una cosa che può riuscire comunque. Mi sembra un'ottima idea. Corrado. Pronto? Spenga la radio, si è aperto. Ho spento la radio, però non ti sento, Gianluca. Se io sto parlando e tu mi rispondi, mi senti? Sì, ok, va bene. Allora, niente, io mi rendo disponibile a fare da accompagnatore io sono single, sì. Relativamente contento della situazione, che come tutte le condizioni ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Questa sera io vado a sentirmi un concerto di jazz gratuito. Se qualcuna, non fa molta differenza, vuole accompagnarmi, facciamo un San Valentino fuori dagli schemi, ben volentieri ci sentiamo al concerto. Ma dov'è il gesto altruistico? Scusa, tu stai ramazzando una donna approfittando di questa trasmissione del giorno di San... Tu vuoi una donna per andare stasera a un concerto gratis, fra l'altro, nemmeno tiri fuori una lira, non mi sembra. No, almeno la birra gliela offriamo, dai. Sai che botta di vita, ma stasera solo champagne, caviale, anatre all'arancia. Ma è un centro sociale, cosa vuoi chiedere? Champagne, vabbè, e caviale. Ma dai, allora, ma dai. Le birre buonissime, birrificio artigianale, compagnia bella. Sì, ma è fuori dagli schemi, l'iconografia deve essere rispettata, quella classica. Questa sera la gente immagina luci basse, dai, violini zigani, no, quello con la fisarmonica che suona la comparsita, non va bene, non può essere così, capito? Non va bene, poi tu stai cercando una donna, non è giusto. Leggo qualche messaggio. No, aspetta, Fabio, c'è Fabio, buongiorno. Sono qua. Fabio, come mai non telefona nessuna donna? Non sono sensibile a questo richiamo di altruismo. Ma non so perché. Sono spietate. Per le donne forse più. Prego? Sono spietate, pensano che l'amore sia contingentato, dice io ce l'ho per me, guai dividerlo con gli altri, poi ce n'ho meno per me. Male, signore, chiamate 80024, 0024, solo maschi stanno chiamando. Allora, sentiamo Fabio. No, io ho scritto che era meglio se una coppia disagiata chiamava un single felice. Ah, ecco, questa è un'alternativa, è un incastro che mi piace. Una coppia disagiata che deve fingere amore la notte San Valentino perché si è rispettata la tradizione, chiami un single felice. E cosa fa il single felice? Secondo me rimane felice, rimane nella sua posizione. Gli fanno un favore, dicono guarda, beato te che sei single. Esatto. Comunque, guardi, no, io non pongo limiti all'altruismo oggi. Marco, buongiorno. Buongiorno. Marco. Buongiorno. Anche... Sì, no, io vorrei essere. Lei cos'è innanzitutto? Disagiato sentimentale o coppia? Disagiatissimo, disagiatissimo. E cosa cercherebbe? No, io vorrei essere invitato per San Valentino dal marito della mia amante. Gli fa un culo così, magari, scusi. Paga anche lui, così siamo contenti in tre. Ma sì, lei sarà contenta, ma lei perché vuole, diciamo, il beneplacito del marito che non si arrabbi, ma non è così. Esatto. E vuole la botte piena e la moglie ubriaca, non è possibile. Certo, è certo, sennò che disagiato sono. Scusi, lei approfitta dei piaceri sessuali di una moglie di un altro, non può pensare che lui è contento, è troppo facile. Contento di invitare una persona disagiata. Sì, ma viene con la motosega in mano per tagliarla a pezzi. Non è una bella serata. Poi il conto lo paga lui. Certo, come no? Certo, grazie. Può essersi anche contento, le fa un favore, non è detta. Potrebbe essere anche che lei si accolla un dovere che a lui non interessa più assolvere. Ma ha provato a dire alla sua signora, al suo amore, se questa cosa potrebbe essere d'accordo? No, non l'ho detto. Ma se voi foste infami potreste anche tentarlo. Lui sospetta. Esatto. Ma lui sospetta di lei? Scusi, mi viene da ridere. Lei rida, io non riderei tanto nei suoi panni. Sì. Comunque, lui sospetta di lei? No. La scuola, perché non lo provate? Invita a tuo marito questa sera. Vabbè, okay, da quanti anni se la spupazza questa signora? Poco. Da qua? Tipo? Due mesi? Due anni? Due anni. Ma non sei stufato, cioè nel senso che no, perché non ho mai cenato insieme, non abbiamo mai cenato insieme, quindi certo, potrebbe essere un'occasione. Lei gli dà l'aperitivo, poi la cena pensa al marito, chiaro. Sì, Vabbè, io, se questo signore ci ascolta e ha qualche sospetto che ha dei problemi, si trova un po' disagiato nel passare dalla porta di casa, questa è la sera buona per fare un gesto altruistico. Dimostri che è grande, dimostri che è capace di perdonare, che è capace di capire, che è capace di condividere soprattutto quelle che sono le gioie della donna con cui sta dividendo la vita, che mantiene probabilmente, alla quale fa regali, vestiti, porta fuori a cena, via dicendo. La porti una sera a cena con il suo amante, dia un momento di conciliazione, questo vorrebbe lei, no? Una specie, sì, certo. E poi scusi, la sera chi torna a casa con la signora, lei o il marito? No, il marito. Cioè, il marito, certo. Gliela riaccompagna ora, a casa lei? Magari come ora magari a qualcuno gli verrà il dubbio e non invita più qualche disagiato uomo, magari. No, soprattutto se la sente qualche suo conoscente, gli verrà il dubbio che sia che si rinuncia. No, dico, Marco, se la sente qualche suo conoscente, non potrà non venirgli il dubbio che si tratti della sua signora e quindi creare dei problemi in famiglia terribili. Certo, appunto. Lei rida, io sono contento che lei rida. Io spero non leggere domani sui giornali. È una situazione un po' strana. Vabbè. Esce di casa impazzito con una mannaia dopo aver ascoltato Melog e fa a pezzi l'amante della moglie che si dichiara alla radio. Stia attento, Marco. Ti fa tanto più ridere, va bene. Vede, ho tolto il sorriso. Maria, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Allora, in merito alla sua proposta, non penso che ci siano donne che vogliano essere considerate delle svantaggiate sentimentali. E perché, scusi? Perché nessuna donna lo ammetterà, è per quello che ne. Ma non è come l'emicrania, come le emorroidi, come qualsiasi altro disagio. Se c'è, uno non è che fa finta. Ma non si ammette, è una situazione che si cerca di farsi piacere nella speranza che poi arrivi la persona giusta. Quindi. Io non sono single, ma lo sono stato per parecchio tempo. Guardi che svantaggiato sentimentale. Ma uno svantaggiato sentimentale. Ma un'amica single. Ma no, single. Infelice da quel punto di vista. Magari appena abbandonata o appena divorziata o magari in coppia, ma che vive poco felicemente il suo rapporto di coppia. Penso perché che una persona normale declinerebbe l'invito, perché gradirebbe che la coppia che invita gestisca la serata come meglio crede. Scusi, ma allora il povero, l'emigrante, il malato che viene invitato in delle occasioni pubbliche in cui la gente vuol sentirsi buona, dovrebbe far finta di niente? Questo è diverso. E perché è diverso? Scusi, ma è un ambito diverso. È meglio essere disagiato sentimentale che povero, che emigrante, che malatissimo. Ma nessuno ammetterà di essere un disagiato sentimentale, anche se dentro sé magari sente che ha qualcosa che ma io non provo nessuna vergogna. Soprattutto il fatto di definirlo sfigato, come si fa dopo un invito, cioè dopo questo tipo di proposta, poter invitare qualcuno? Cioè, se io questa sera chiamassi un'amica dicendole vieni a cena con noi due, dai, facciamo una cosa simpatica, magari anche allarghiamo. Questa mi dice, ma perché hai sentito Radio 24? Non sono mica una sfigata. Mi capisce che potrebbe diventare una cosa molto indelicata. In molte fasi della mia vita mi sono sentito sfigato. Magari qualcuno mi avesse invitato, mi sarei sentito meno sfigato. Perché bisogna avere questa titubanza? Single. Vabbè, ma giochiamo con le parole. È chiaro che giochiamo con le parole per dare carico a quello che è una provocazione. Ma non sia così austera e così calvinista, non me ne vogliono i calvinisti, così rigorosa nel definire le categorie. È una cosa allegra. Io ci avessi un amico, mi chiama, ti vedo un po' giù Gianluca, stasera ti invito a far festa. Sarei tutto contento, dico, questo amico mi vuol bene. Perché abbiamo paura? Perché pensa che le donne non amino parlare dei loro problemi amorosi? I giornali non avrebbero rubriche della posta del cuore, non ci sarebbero fior di psicanalisti che su YouTube non fanno altro che dar consigli come comportarsi quando l'amore non funziona, come lasciare gli amanti, come lasciare i fidanzati. Cioè c'è tutto un pullulare di mercato che questo vuole, quindi non c'è cosa migliore che invitarle stasera, secondo me, è il mio punto di vista. 800 24 00 24, dai, forza, è il momento buono, datevi da fare, non vi spaventate le parole, aiutate chi è sentimentalmente svantaggiato. Mi sembra un termine politicamente correttissimo, mica ho detto sfigato in assoluto, sentimentalmente svantaggiato è bello. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Tu sei fortunato, ma sappi che esistono anche gli amorosamente svantaggiati, che a San Valentino si sentono come piccole fiammiferaie la notte di Natale, destinati al congelamento e alle visioni pre-morte. Sarebbe bello che oggi ogni coppia di innamorati felici inviti a passare con loro la notte di San Valentino un povero, sfigato solitario, una romantica sedotta e abbandonata, un qualsiasi reietto per cui non sia possibile condividere il sogno glitterato dei cuoricini palpitanti di passione, dei teneri micini che si fanno le fusa, dei tramonti luccicosi, delle candele profumate. Lo svantaggiato sentimentale ve ne sarà grato e la vostra storia d'amore ne sarà arricchita. Posso vaticinare chi non avrà nessun invito stasera e sarà probabilmente il più sfigato degli sfigati, chi mi scrive amica infelice, solo disponibili per voi 21 centimetri di felicità. Ecco, tutto sto ben di Dio, se proprio ce l'hai e se proprio non sai che farne, mi sembra un po' singolare che tu mandi un sms alla nostra trasmissione, visto che probabilmente quel prodotto il mercato non ti richiede. Un altro: cercatemi, sono pronto a dare due colpetti a donne infelici. Ecco, pensa, non aspettano altro che arrivi te. Ettore, buongiorno. Buongiorno. Voglio ospitare a casa mia, con mia moglie e la bimba, due persone single. Si può fare? Va. No, sì, faccia, no. Articoli meglio l'offerta, che interessante. L'offerta è questa, tipo Groupon, però è gratis. Beh, certo, che questo è da per sé, è un invito, certo, mica devono pagare. Cioè lei invita a cena, la sera di San Valentino, un uomo e una donna. Un uomo e una donna. E se fossero due uomini e due donne? Va bene, uguale. Vabbè, due persone. No, solo. No, non volevo essere scorretto. No, lo mando, mi figurami, cioè, a me che mi cambia. Per me può invitare anche un uomo e una gallina, una donna e un ornitorinco. Che è quello che vuole. Non saprei se la gallina fosse d'accordo, consenziente, o l'ornitorinco. Non lo so, vabbè, ma per dire, lei vuole comunque invitare due persone. Due persone. Raddoppiare l'offerta. Ecco, come immagina la seratina di felicità da condividere con loro? Ah, la immagino così: innanzitutto che le persone vengono, si tolgono le scarpe, si mettono le pantofole, si accomodano, si chiacchiera. Le pattine sotto i piedi per non sporcare. Sì, vabbè, no, giusto, sì, quello è giusto. No, ma tanto comunque è sporco, per un fatto proprio mentale. Sì, ma è giusto, a casa mia pure non si entra con le scarpe. È così, poi a terra c'è di tutto perché la bambina gioca. E ecco, anche il casino dei bambini mamma. Rimangono sparpagliati per casa, quello sì, non viene... Ovvio. La pantofola serve per evitare che il mini pony possa ferire il tallone. Mini pony, o magari pestano il pannolone pieno, ci può essere dei problemi. Comunque, i bambini giocano per casa. Esattamente. E continuano tutta la sera: mamma, papà, dai, va gioco il mini pony. Va bene, quello va bene. Poi, quello okay, è giusto. Ma un poco gli ospiti. Chi cucina? Nuovi, sua moglie come... cucina? No, cucino io. Cucina, cosa preparerebbe per questa sera? Allora, preparerei una cena vegetariana. Certo. Quindi, questo non me l'ero preparato. Immaginato che c'era tutto c'era tutto verde. Tutto verde. Tasse verdi, verdi, i cose integrali, tutte legumi, tuberi, coloriamo anche di verde, va. Tutto verde. Vabbè, una cena verde offre. Si beve tè verde, naturalmente. Tè verde bancia, ovviamente, e poi avocado, tutto quello che può essere verde, lo mangiamo. Vabbè, è la scelta, lei è il padrone di casa. L'unica cosa rossa, l'aglianico, che... Sì. L'aglianico per gli adulti. Per gli adulti, solo i bambini piccoli, gli altri si pensa che siano adulti quelli che vengono, qui tutti siete adulti. No, per forza. Le bambine mangiano prima o mangiano a tavola con voi? No, questo è fondamentale. No, con noi, no, insieme. Insieme, quindi anche schizzi di minestrina, tutto va bene. E va bene. Poi... ma che minestrine? No, i bimbi devono... bimba poi, perché tra l'altro solo una figlia ho io. Ah, una sola? Pensavo più di una. Quanti anni ha? Tre anni. L'età giusta, bellissima. È l'età giusta per mangiare tutto e per non rompere, fare 10 miliardi di cucinate diverse. Ho memorie diverse di bambini, tre anni, comunque va bene. Ecco, a tavola poi cosa fate? A tavola, dimostrate il vostro amore, fate vedere se innamorati, vi scambiate i cuoricini. È proprio questo il fatto, noi ci comporteremo come sempre, quindi potrebbero anche volare dei piatti. Ah, cioè voi vi fate vedere come è veramente una vera coppia anche il giorno di San Valentino. Esattamente. Vi prendete a piattate. Da rompere tutti quei cliché inutili. Beh. E queste due persone avrebbero questa lezione di vita e capirebbero realmente cosa li aspetterebbe se convolassero a un fidanzamento o a una coppia fissa. Eh esatto, oppure altra opzione, potrebbero immaginare un modo nuovo per vivere la coppia. Ma il modo, no, è il modo antico come il mondo, alla fine le coppie vanno sempre a finire così, appiattate in testa, anche se stanno scrivendo l'amore è bellissimo e si reinventa anche a 70 anni, sì, a fare l'ulop col catetere, ma che stiamo a dire? Avanti, Graziella, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti, allora grazie a lei, oggi lascia stare San Valentino, vado a farmi una bella serata, ma solo grazie a lei, perché avendo un'amicizia da tantissimo tempo, però questa amicizia maschile, ma sì, ma no, ero sul cellulare, sentivo lei, ho riattaccato, ho chiamato un mio caro amico che è veramente, sono stata io lì a avere l'iniziativa, grazie a lei signor Nicoletti. Quindi stasera le darà il frutto dell'amore grazie a me. Allora, stasera io mi faccio una bella serata con un bellissimo uomo, grazie solo a lei, perché mi è venuto il coraggio di fare io, ho detto a questo, sono io San Valentino oggi. Quanti anni ha lei, signor Nicoletti? Da quanti anni è che aspetta questa serata? No, beh, col marito, sì, sa, si diventa un po'... Ma il marito è rimasto lì, sa questa cosa? No, il marito è morto. Ah, è morto. Ah, beh. Io sono libera di... Da quanto tempo? Da quanto tempo è morto il marito? 10. Beh, 10 anni, potrei anche pensarci un po' prima. Lei 10 anni che spera di uscire con questo signore? No. Tutte cose, non so, io prendevo anche i nipoti e andavo a far San Valentino, ecco, dicevo io, l'amore per... anche per i nipoti, anche per i figli. Comunque no? Stasera ha trovato l'ometto per far San Valentino. Ma non è ometto, è un gran bel amico, libero anche lui. E come si conosce? Un'altra amicizia, mi dispiace che... Ma io sono contento, lei questa sera, io, alla fine della trasmissione, un risultato l'ho ottenuto. Lei ha avuto il coraggio di dire a un uomo, mi porti fuori stasera che è la festa degli innamorati. Certo, è una domanda che è impegnativa. Ti invito io, perché bisogna essere anche le donne innamorate. Sì, sì, ma quello ormai non presenti. Fa differenza. Cioè... Ho detto, ti invito io, andiamo fuori, vero? Allora, dopo dice, che contento, a che ora passo a prenderti? È passato lui a invitare, capisci? Non è che ho detto passo io a prenderti perché io ho la mia bella auto e tutto eccetera eccetera, la mia bella vita. Ma guardi, buona. Probabilmente non aspettava altro da almeno 7 anni questo signore, questa telefonata l'aspettava da tanto tempo, se avesse fatta prima, sono contento che l'ho dato il coraggio, vedo mi stanno arrivando messaggi di persone indignate, cioè a sparare minchiate senza contraddittorio, sono abbastanza bravo, vabbè, il contraddittorio è un'ora che sto dicendo alle persone chiamate, potete dire esattamente quale fosse il contraddittorio, comunque lo hanno fatto, intanto Graziella alla faccia vostra questa sera si beccherà un bel San Valentino e se lo ricorderà per tutta la vita. Mauro, vediamo, chiudiamo con Mauro. Buongiorno Gianluca. Sì, beh, insomma, concordo che con questi messaggi, anche qualche telefonata un po' troppo severa, ma insomma, voglio dire, è un argomento comunque che dovrebbe rimanere nel leggero. No, anche per prendere sul serio San Valentino bisogna essere proprio bravi, di orizzonti limitati, perché ma mi viene solo da ridere a pensare la stronzata di questa festa. Comunque, ma può essere un'occasione per fare appunto qualcosa di giocoso come questa signora o come quello che ci siamo detti. Io la mia esperienza è questa, io sono non so se amato o odiato, ma insomma grazie a me, grazie a questi incontri che organizzavo sia da ragazzo che da più grande, io sono sposato 2 volte, quindi insomma ho fatto già il giro e conosco tutto e il contrario di tutto rispetto all'argomento, però insomma grazie a me ho 5 amici che si sono sposati con persone che gli ho fatto conoscere io, non so se questo è un merito o un demerito, però io sono molto contento di questo e quindi mi costano molto negli anniversari di nozze, però insomma io penso che il 90% delle persone che vivono assieme qualcuno le ha fatte conoscere, ultimamente magari si usano i social network, ma nel solco della tradizione c'è sempre qualcuno, ci ha presentato un'altra persona, ci ha invitato a una cena, ha creato un'occasione. Chi se non un amico sa chi potrebbe essere una persona interessante. Va no? bene, io ringrazio le persone che hanno collaborato alla riuscita di questa trasmissione, ringrazio anche Giuseppe che mi scrive se l'espressione autocompiaciuta di un mondo anche radiofonico cinicamente orribile. Siamo orribili, ne siamo fieri. Alla prossima.